Storiacce di Raffaella Calandra. Io posso dire a nome di tutti i magistrati milanesi: noi non ci sentiamo una fortezza assediata, non vogliamo alzare ponti levatori. Vogliamo continuare a svolgere la nostra professione e la giurisdizione aperti alla società, aperti alla cultura, aperti ai cittadini, aperti agli studenti che entrano in queste aule tutti i giorni per verificare che cosa si fa in queste aule, come funziona. E quindi, se vogliamo mantenere, come proprio della Milano Civile, questo senso dell'apertura all'esterno, occorre che riflettiamo sul nostro modo di essere, sul ruolo, sulla funzione, sulla nostra anima, come cioè non perdere l'anima dei giudici. Ci sono tutti i giudici milanesi in quest'aula magna di colpo troppo piccola. C'è tutto lo spirito della Milano Civile in questo primo piano del Palazzo di Giustizia, fermo per ricordare, per piangere, ma soprattutto per capire e andare avanti, per capire perché un uomo, un imprenditore dichiarato fallito, ha ucciso un giudice, un avvocato e un suo ex socio e come sia stata possibile una simile strage in tribunale. C'è il tema della sicurezza ai varchi, quello della scarsa presenza di forze dell'ordine dentro la cittadella giudiziaria. C'è il tema dei tagli ai finanziamenti, ma c'è pure il tema sollevato da tanti delle tensioni e dell'isolamento delle toghe. E c'è il tema fortissimo della crisi economica, che potrebbe diventare crisi della ragione, ha avvertito il presidente della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Canzio. È successo allora questo? È da qui allora, da quest'ultimo aspetto, che vogliamo cominciare questa puntata di Storiacce sulla strage in tribunale, e lo facciamo a partire dal terzo piano del Palazzo di Giustizia. Sì, era un'udienza per un reato, la bancarotta, che di per sé non denota una particolare, tra virgolette, pericolosità degli imputati, quindi un'udienza molto tecnica. Eravamo in aula una quindicina di persone, tra magistrati, soggetti interessati, avvocati. E poi, in una specie di pausa, diciamo, dell'udienza, nel senso che stava per essere introdotto e si era appena seduto il nuovo teste, che era il giovane collega purtroppo rimasto ucciso, io ero seduto in una delle panche in fondo, ho sentito alle mie spalle dei colpi molto forti. Distinto, ho svoltato lo sguardo sulla sinistra, ho visto questa sagoma, che poi era quella del giardello, che si stava, tra virgolette, avvicinando alla zona dove c'era appunto il povero collega e il pubblico ministero. Ha esploso altri colpi e poi è uscito repentinamente dall'aula. A quel punto è sceso un momento quasi di un silenzio irreale, perché non avevamo forse tutti realizzato quello che era successo in così pochi istanti. Siamo usciti dall'aula, ma per pochi secondi. Io poi sono rientrato e mi sono accorto che c'era un ferito che mi chiamava, che era Limongelli, con un telefono in mano, e mi ha detto: ho fatto io il numero del 118, ci parli lei. Quindi io poi ho preso in mano il telefono e ho tenuto i contatti con i soccorritori del 118. Ecco, ma lei ha sentito qualcosa, ha detto qualcosa, no, a Giardiello? Assolutamente, non ha detto assolutamente nulla, cioè è proprio stata questa la cosa che appunto ci ha preso all'improvviso, perché sono stati solo i boati quelli che abbiamo sentito. Ecco, prima c'era stata una situazione col suo difensore in aula, ma in tutto sommato abbastanza contenuta, insomma il collega aveva deciso di rinunciare al mandato, Giardiello non aveva neanche detto nulla, già evidentemente immaginato quelli che erano i suoi bersagli, e tristemente li ha proprio raggiunti. Era dentro l'aula della seconda sezione penale l'avvocato Gianluigi Tizzoni nel momento in cui Claudio Giardiello si è alzato dall'ultima panca e ha cominciato a sparare. Senza una parola ha puntato a Loris Appiani, il suo ex difensore che stava giurando per deporre come teste della difesa. Ha poi sparato e ucciso il suo ex socio Giorgio Erba, coimputato nello stesso dibattimento per bancarotta fraudolenta. E poi ancora ha sparato, ma fortunatamente ha solo ferito, Davide Limongelli, il nipote, ex socio con cui aveva avuto tensioni proprio per la gestione della Immobiliare Magenta. Il primo atto della strage si consuma qui, in quest'aula, al terzo piano, e termina poi al piano inferiore, nella stanza 250 del giudice Fernando Ciampi. Siamo alla sezione fallimentare, dove nel 2008 era stato dichiarato il crack della sua società e dove negli ultimi anni sempre più fallimenti e concordati sono stati proclamati. Contenzioni crescenti e minacce all'ordine del giorno, ricorda oggi con sgomento e inquietudine Filippo Lamanna, fino a qualche mese fa a capo proprio di questo ufficio e ora presidente del Tribunale di Novara. Non riuscivo a darmene una spiegazione se non pensando che tale il livello di ostilità che è andato crescendo intorno alla magistratura da poter far pensare anche al folle, anche alla persona più squilibrata, più disperata, che sia possibile uccidere il giudice delegato che si occupa del civile, che si occupa del fallimentare, che di norma interviene a tutela delle ragioni sociali. Avete percepito col tempo e con l'avanzare della crisi anche una crescente ostilità nei vostri confronti, nei confronti di voi magistrati? Diciamo che il clima di ostilità che si è andato accumulando in questi anni non dipende tanto da questo, dipende dalle note vicende che contrappongono politica e magistratura. Le immagini che moltissime imprese, per esempio, hanno trovato non un vantaggio, ma uno svantaggio nelle norme che negli ultimi anni sono andate accumulandosi e che hanno riformato il diritto fallimentare. Moltissimi fallimenti, moltissime crisi si devono all'effetto indotto dall'eccessiva facilità con cui oggi si può chiedere un concordato, per esempio. Lo avete percepito, diciamo, il clima diverso in questi anni? Non c'è dubbio. In che modo? Le immagini che, mentre quando sono entrato io a presiedere la sezione fallimentare a Milano si dichiaravano circa 600-700 fallimenti all'anno e si aprivano una cinquantina di concordati, l'anno scorso, quando poi ho lasciato la sezione, noi abbiamo dichiarato 400 concordati, 400. C'è una cifra comparabile a quella che qualche anno prima riguardava i concordati in tutta Italia e abbiamo dichiarato 1300 circa fallimenti. Ora lei capisce che con questo impatto della crisi a livello sociale le tensioni sono fortissime. Comunque però non c'era mai stato, nessuno dei suoi colleghi le aveva mai riferito di episodi anche un po' così di tensione, un po' verbale con qualcuno? No, guardi, queste sono all'ordine del giorno. Ecco perché io le dicevo che c'è un clima di ostilità che è andato maturando, perché molto spesso arrivano personaggi un po' ai limiti, no? Che danno in escandescenza, che vorrebbero fare cose strane, poi vengono rabboniti quando si riesce in qualche modo a rabbonirli, ma oggi mancano gli strumenti per sanzionarli e per limitare con la forza anche dell'autorità, perché la democrazia per essere viva ha bisogno anche di forza, di autorità, certo. Che oggi è andata scemando per tutta una serie che non resto a raccontare di interventi normativi finalizzati a rendere meno forte l'intervento della magistratura, ma episodi di questo tipo ce ne sono continuamente, non così gravi, che destano un po' di preoccupazione. Ci sono. Lei ne aveva mai parlato anche con i vertici del Palazzo di Milano? Ne avevamo parlato, ma come si parla delle cose che ormai appartengono alla quotidianità, non alla eccezionalità, perché purtroppo piano piano ci si rende conto che è difficile trovare soluzioni endogene, cioè da parte nostra, a queste problematiche, se non c'è un intervento più vasto di carattere generale che coinvolga un po' tutte le istituzioni. E oggi presiedo il Tribunale di Novara e tra le tante cose di cui continuo a occuparmi, facendo anche il giudice, c'è la materia della famiglia. Ebbene, vi assicuro che questa crisi ha inciso moltissimo anche sui comportamenti individuali delle coppie. Certo, altro settore dove all'altro fallimento, che è quello personale, diciamo così, si misura anche lì una forma di aumentata violenza, di reazioni spesso incontrollabili, di disperazione. Quindi ogni settore sta vivendo una forte tensione. E voi che ne siete in qualche modo in quel momento intermediari, perché funzionari a occuparvi appunto di quella vicenda, finite con l'essere il primo bersaglio. Quando io le dicevo, la prima reazione che ho avuto è stata quella di perplessità, di costernazione, ma com'è possibile che all'interno di un tribunale, il tribunale di Milano, questo signore abbia potuto girare indisturbato con una pistola in mano. Vuol dire che non c'erano i carabinieri, non c'era polizia, ed è il problema della sicurezza interna quello che oggi è il più grave. Perché si fanno i processi penali senza che ci sia all'interno delle aule qualcuno che possa proteggere chi sta facendo il proprio lavoro in quel momento, ma anche il pubblico. Lungo i corridoi c'è pochissima sorveglianza, non c'è cioè quella risorsa umana che è fondamentale per l'istituzione di giustizia, e cioè l'assistenza delle forze di polizia. Ma è possibile immaginare che si possa continuare a esercitare un tipo di servizio così delicato in situazioni di così forte tensione senza che ci sia almeno un apparato idoneo a costituire un deterrente per il malintenzionato, per quello che frequenta le aule per ragioni patologiche? Cioè, ci vuole qualche cosa, come dire, una rinnovata consapevolezza del fatto che per esercitare giustizia ci vuole un apparato in grado di poterlo fare con mezzi adeguati. Se si pensa di poter continuare a utilizzare questo servizio senza mezzi, senza persone, senza risorse, evidentemente noi saremo sempre in queste situazioni che andranno ripetendosi o andranno addirittura moltiplicandosi. Questa è la mia opinione. Sono le crisi economiche che rischiano di diventare crisi anche della ragione? I risentimenti dei singoli, come questo di un imprenditore fallito, possono unirsi e confondersi con le tensioni costanti intorno al mondo della giustizia? Da settembre la gestione dei servizi dei tribunali, compresa la sicurezza, torna a Via Arenula, ma questo, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce, per molti è un ulteriore elemento di pericolo. Davvero c'è il rischio che fatti del genere possano addirittura ripetersi? Lo sentiremo tra poco. Storiacce. Entro e mi trovo un collega che conosco bene, ma adesso non ricordo il cognome, che è con la toga in mezzo all'aula, completamente spaventato, che mi dice: Luis, guarda che cosa ha fatto questo, sto matto, guarda che cosa è successo. Mi volto a sinistra e che vedo? Vedo un ragazzino giovane, avrà avuto 25-30 anni, per terra, freddo, occhi sbarrati, bocca aperta, già bianco. Lo tocco, morto. Ha proprio un foro sotto il cuore, proprio una calibro piccola, una piccolissima macchia di sangue sotto nella camicia. Io cerco di vedere se è ancora vivo, niente, nessun battito. Poi mi dice l'avvocato: guarda lì che ci sono altri due per terra, io non li guardo perché mi fa impressione. Vado a vedere dietro i banchi e ce ne sono due stesi. Uno con gli occhi aperti, nel panico, con una che si teneva la pancia, e poi un altro disteso tra le sue gambe. Allora vado da quello, perché questo è sveglio, gli chiedo: come stai, come ti chiami? E mi dice: mi chiamo Davide. Ma Davide, che cosa è successo? Ci hanno sparato, ma chi è stato? È stato questo, mi fa il nome di questo personaggio. E dico: ma questo signore per terra, grosso, chi è? Questo è mio zio, Giorgio. Allora, come si chiama? Giorgio. Allora comincio a chiamarlo: Giorgio, stai con noi, dai Giorgio. E Giorgio mi dice, non dice niente, muove gli occhi, ma probabilmente era solo uno spasmo, qualcosa, gli sento la gola e ha battiti piccolissimi, proprio lontanissimi. Dopodiché muove ancora due volte gli occhi e si ferma. Ma diciamo che poi passa una bella mezz'ora. Cominciano ad arrivare la polizia, cominciano ad arrivare le persone che si affacciano, cosa è successo. Ma ho detto: ma signore, ma volete chiamare questa ambulanza o che cosa dobbiamo fare? Una strage all'interno del tribunale. Claudio Giardiello, entrando con la sua pistola e due caricatori dentro il Palazzo di Giustizia di Milano, non ha solo ucciso tre persone: un giudice vicino alla pensione, un avvocato che stava entrando invece nella carriera e un suo coimputato che rispondeva agli obblighi della giustizia. Con quegli spari Giardiello ha anche svelato la fragilità di un palazzo simbolico che sembra all'esterno un fortino e messo sotto accusa l'intero sistema di sicurezza. una sicurezza da tempo ormai non più affidata all'ingresso alle forze dell'ordine, ma a società private, guardie giurate della All System, aggiudicataria insieme ad altre società anche dell'appalto per la sicurezza di Expo, e poi società di portierato come la Securpolis, i cui dipendenti erano al varco di Via Manara, dove è entrato Giardiello. Non sono armati, controllano solo i tesserini, perché questo varco è dedicato esclusivamente a magistrati e avvocati da quando è stato tolto il metal detector. È del tutto evidente che questo è il momento del cordoglio, ma dovrà essere fatta chiarezza su ciò che è accaduto e soprattutto su come sia possibile che si sia potuto introdurre un'arma all'interno di un tribunale. Non è la prima volta, a dire il vero, che questo accade, deve essere ovviamente l'ultima. Il governo ha dato il mandato molto forte di fare la massima chiarezza sulle falle del sistema, che è evidente che ci sono state, perché è impensabile e impossibile che una persona possa entrare dentro un tribunale. Il premier Matteo Renzi promette cambiamenti e risposte. Di sicuro a settembre è già deciso che torni in mano al Ministero della Giustizia l'appalto per la sicurezza, ma questo non significa il ritorno delle forze dell'ordine ai varchi, anche se dal Viminale, sull'onda pure dell'emozione per la strage in tribunale, lasciano trapelare l'intenzione di riprendere i vecchi standard. Vedremo. Nel frattempo l'accentramento, il passaggio cioè dai comuni al ministero, preoccupa ancor di più le toghe come Claudio Castelli, ai vertici dell'ufficio GIP di Milano, che si è nel tempo anche occupato del tema sicurezza del palazzo, convinto che pure l'esternalizzazione del servizio possa essere una delle cause di quanto successo. Può essere una componente. Può essere una componente perché? A mio avviso è sicuramente più affidabile l'arma dei carabinieri o un servizio di polizia rispetto alle guardie giurate, che normalmente danno un'altra formazione. Però lei, che conosce bene lo stato anche dei dati economici sia del palazzo. Il Ministero della Giustizia, il sistema che c'è oggi, che è quello della legge del 41, è che il comune paga, dopodiché dopo 2 o 3 anni il Ministero della Giustizia rimborsa in parte quello che paga. Il problema per cui a un certo punto la situazione è diventata critica è che mentre prima pagavi il 100%, man mano quello che viene rimborsato ai comuni è sempre di meno. I comuni hanno voluto essere sgravati da questo. Quando c'è stato il passaggio 10-15 anni fa. E adesso però ci potrebbe essere questo ulteriore passaggio al Ministero della Giustizia. Sì, ma il passaggio al Ministero della Giustizia oggi sarebbe un passaggio come appaltante, che tu hai il comune che ha un interesse locale, a questo punto ha anche un interesse di far funzionare le cose. Quando hai un lontano Ministero della Giustizia che deve gestire tutto il livello nazionale, come farà a farlo? Per cui è un problema enorme che si porrà. Aveva studiato tutto Claudio Giardiello: il varco da cui entrare, l'unico senza metal detector, e come entrare. Aveva selezionato i bersagli e studiato il percorso dall'aula del processo alla stanza del giudice Fernando Ciampi, e poi ancora a bordo del suo scooter fino a Vimercate, dove dava la caccia al suo quarto obiettivo, ancora un ex socio che riteneva colpevole della sua rovina. Nel 2008 era stato proclamato il fallimento, ma prima erano cominciati i dissesti finanziari e i problemi giudiziari, e fin da subito uno dei difensori di Giardiello, Vincenzo Maraniello, aveva notato le sue intemperanze e forse anche la sua pericolosità, a quanto ci ha raccontato. Era un cliente difficile, una persona difficile da gestire anche in udienza, perché aveva comunque degli aspetti di intemperanza. Era una persona comunque con degli scatti d'ira, aggressivo, pur essendo una persona molto gentile e educata, però poi aveva questi momenti in cui era francamente difficilmente gestibile, insomma. E invece della sua storia, diciamo, personale o professionale, ricorda qualcosa? Guardi, all'epoca so che la Immobiliare Magenta era una società che all'epoca andava bene, che partirono con questa serie di problemi per delle diatribe tra soci, furono i soci a promuovere una serie di azioni legali. Credo si lamentassero di una scarsa impegno che lui metteva nei confronti dell'attività sociale, però questi sono ricordi che risalgono un po' nel tempo. Ho la sensazione che poi il tracollo iniziò in quel momento, cioè quello furono le prime avvisaglie di una di un tracollo economico, forse dipeso più dai suoi atteggiamenti che da un'effettiva problematica legata al mercato. Ma se questa è la storia di un singolo che voleva vendicarsi e che per questo ha violato con i suoi spari il tribunale e ucciso 3 persone, se questa è la storia del progetto folle di un bancarottiere, questa in realtà è pure la storia simbolo di una tensione e di una rabbia sempre crescente nei confronti di toghe che lamentano la loro solitudine. Lo ricorda il vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini. Lo dice con toni più diretti il presidente della ANM, Rodolfo Sabelli. La giustizia si scaricano troppe tensioni, vi è spesso una sovraesposizione e allora a queste tensioni, alla rabbia che poi genera anche questi gesti, bisogna dare una risposta. Quello che è accaduto è una tragedia per chi è stato ucciso, per i familiari di chi non c'è più, ma assume un valore tragicamente simbolico. Queste persone che sono morte, un magistrato, un avvocato, un cittadino lasciati soli anche da un sistema di sicurezza che ha rivelato delle falle molto gravi. Il tema è quello del recupero di generalizzata fiducia, l'impostazione è quella in cui noi ci ritroviamo perfettamente nelle parole del capo dello Stato. Questa è la storia di una strage al tribunale che potrebbe nascondere molto di più, ma che di sicuro ha portato in luce tutti i buchi e la fragilità di questo mondo che sembra invece blindato. In genere, a questo punto, la linea va alle mitiche storiacce e poi alla vostra segnalazione. Ma questa settimana invece no, perché vogliamo lasciarvi col ricordo di quello che è successo e delle riflessioni e con le riflessioni che ciascuno di voi avrà fatto. Se vi va però, condividetele con noi sulla pagina di Storiacce sul sito di Radio 24 oppure sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!